santo bevi l'acqua, Antonio. Buon pomeriggio a tutti, sono del RLS del VCO e beh, ho depennato una trentina di righe, perché ormai tutti più o meno hanno detto delle cose che comunque avrei chiesto anch'io. Io volevo solo fare due annotazioni. C'è una frase che mi piace molto di un signore che dice: non dobbiamo chiederci cosa può fare lo Stato per noi, ma come noi possiamo fare qualcosa per lo Stato. È una frase di John Fitzgerald Kennedy nel suo discorso di insediamento. Ed è una cosa che mi ha sempre colpito, questa frase la uso per diciamo riportare tutti a una responsabilità collettiva, no? Lui per la sua visione di cambiamento, di rottura in quel momento dell'insediamento nei confronti della politica vecchia, no? E noi per incominciare a ragionare, ma lo abbiamo fatto, no? Su determinate cose, no? E queste cose sono: bisogna alla fine dirci e dire a tutti che lo Stato non può accomodare tutto a tutti, no? Ma cosa abbiamo noi da proporre di nuovo in confronto a quello che sembrava fosse lo Stato sociale acquisito, no? Dobbiamo pensare di contribuire e pretendere di contribuire nel difendere e rinnovare lo Stato sociale come filosofia di pensiero europeo, perché siamo l'unico continente che ancora bene o male regge una cosa che si sta dissolvendo da tutte le parti. Dove non c'è mai stata, non si sta creando, e dove c'era, si sta dissolvendo, ovvero la capacità di crescere nella equità e nella giustizia sociale. No. Questo è un mio pensiero per quanto riguarda una certa maniera di fare politica sindacale. Poi tutti hanno toccato i vari punti. Io mi sono lasciato due cose: gli iscritti. Ora, c'è questa polemica, la faccenda dei partigiani. Molta gente ci vede come collaborazionisti, però, Bisogna stare molto attenti a questa cosa. Bisogna stare molto, molto attenti a questa cosa, perché nessuno, tutti avranno, purtroppo, e lo vediamo, no, un livello culturale diventa tragicamente, parlo personalmente, mio figlio, no, che non conosce più niente di niente, nonostante i tentativi, buone compagnie. San Dio internet, dove passa tutto e il contrario di tutto, dove la disinformazione è totale, no? Però abbiamo questa lure di persone che hanno fatto in maniera, il sindacato ha collaborato, ha permesso, ha aiutato il distruggere questo, il togliere quell'altro, di quell'altro. Dobbiamo completamente cambiare questa situazione, perché se no noi non riusciremo più a crescere, no? Un'occasione fondamentale, credo, per la nostra, non solo per la nostra zona, ma per tutto l'intero Piemonte, sarà la sanità, no? Perché io credo che la nostra comunità deve investire in un servizio universale. Dobbiamo avere strutture e servizi della comunità per la comunità, della comunità, e dove non sia indispensabile si usi il privato. È mia personale convinzione di non poter commettere l'errore di pensare che siccome sul territorio c'è già il privato, allora il pubblico non debba investire. Io credo che sia veramente una linea di pensiero che non può passare. Questo lo è per me, e credo che siamo tutti d'accordo su questa, con questo concetto, perché sennò sarebbe la fine della sanità pubblica, e nei momenti di, chiamiamo così, ristrutturazione, di ritorno, con tutti i problemi legati alle risorse, questo e quell'altro, quello che sia fondamentale è che la sanità è pubblica e deve rimanere pubblica. Il privato fa le cose che il, diciamo, il sistema pubblico può anche, fra virgolette, non fare per tutta una serie di motivi. Come ultima mi è piaciuta la, diciamo così, nelle notte passate negli alberghi in giro per il mondo a lavorare, su Lutero. Vorrei ritornare lì, perché da tutti i libri che leggevo al posto di andarmene in giro per le città, Lutero, direi che dopo la sua affermazione, no, a Magonza ebbe un problema. I principi tedeschi gli chiesero da che parte stava e lui decise che la rivoluzione, chiamiamo così, religiosa del protestantesimo stava dalla loro parte, e con questo come conseguenza ha portato niente di più che niente di meno nell'acquisizione della Pax Romana, ovvero 75.000 morti dell'esercito dei contadini, dei rivoluzionari. No, probabilmente Lutero si è guadagnato un pezzo della storia, ma è rimasto anche molto vivo, perché se no l'avrebbero eliminato insieme ai contadini. È un problema che comunque avremo sempre, perché dal dire al fare, purtroppo, tante volte c'è di mezzo al mare. Grazie.